scrivi in automatico, vivendo in modo pratico. Nel rap cerco di uccidere, ma non sono sadico. Questo rap è magico, sicuramente impavido. Rappo per scacciare come un trapano. La musica è la malattia, facendola mi medico. Tu speri che io vada via sfogandomi, mi vendico. Le cose più importanti, io non le dimentico. Nel rap siamo tanti, il mio posto lo rivendico. Ogni rima è l'Eldorado, mi preparo, prende e vado. Corro anche se perdo il fiato, questo è, mi sento grato. Ho disintegrato chi mi ha vincolato, ho preso la mia via e mi sento molto meno disperato. Dicono che ormai siamo fottuti da nemici sconosciuti, finti amici che non sai da dove sono usciti. Gli animi felici sono più rari, gli infelici più frequenti. Non lo senti, è il mondo dei contrari. Quando vai, senti dire in giro che è tutto ok. Tu lo sai, guarda ciò che hai, non più ciò che sei. Ma vedrai, tutto cambierà quando mai, quando mai, quando mai, quando mai, quando mai. Senti dire in giro che è tutto ok. Tu lo sai, guarda ciò che hai, non più ciò che sei. Ma vedrai, tutto cambierà quando mai, quando mai, quando mai, quando mai. Ho flow che decapita, zero rima statica. Autoria che ho messo in pratica, se ti fa male capita. Te la porto rapida, con la testa lunatica. Ho più sbalzi d'umore di una donna gravida. Ho pesi sulle spalle ma non li posso levare. L'importante è che alle spalle non ti puntino un pugnale. L'importante è stare attenti a chi ci vuole abbattere e stare sempre in piedi con la forza di combattere. Non siamo marionette, non vogliamo le manette, ma vogliamo mani libere per mettervi alle strette. Non critico le tue scelte, non limito le mie scelte. Un po' mi limito e non supero il limite del decente. Ancora scrivo, ancora vivo, ancora scrivo ciò che vivo. Punto sempre a posto primo, sono a posto quando rimo. Sono opposto a chi fa il figo, senza l'ombra di un motivo. E non sopporto chi era amico, ma alla fine è sparito. Quando vai, senti dire in giro che è tutto ok. Tu lo sai, guarda ciò che hai, non più ciò che sei. Ma vedrai, tutto cambierà quando mai, quando mai, quando mai, quando mai, quando mai. Senti dire in giro che è tutto ok. Tu lo sai, guarda ciò che hai, non più ciò che sei. Ma vedrai, tutto cambierà quando mai, quando mai, quando mai, quando mai, quando mai, quando mai.